avrei giammai creduto. Ma farò quel che potrò, e porello un'altra cena, a che subito si porti. Padron, siamo tutti morti. Vanne, dico! Ferma il cuore in petto, quel tremore senta salir di spiriti, non escono quei vortici di fuoco pieno.